Mi fa vibrare l'anima il solo pensiero che ogni fine ha un inizio. È un eterno avvicendarsi di parole e silenzi alternati a rumori troppo troppo evidenti. Tra la notte e l'aurora, tra il tramonto e le lenzuola, tra la notte e l'aurora. Inutilmente scavalcando i nostri limiti. Ci vestiremo di silenzio, un addio senza rimpianto. Tanto domani è un altro giorno. Domani un altro giorno. Lassù nel cielo ci sarà la nostra impronta pronta a stare nel firmamento, per riflettere nel tempo il nostro essere diverso da chiunque altro e per dire che sono me stesso. Tra la notte e l'aurora, tra il tramonto e le lenzuola, tra la notte e l'aurora. Inutilmente scavalcando i nostri limiti.